Poi mi torno per il macungo, che arriva a bomba, che c'è con il burcondo in oro. Buon poi mutuo! Buon poi! Buon poi! Buon poi mi torno con il bucai, buon poi mi sapri saro, buon poi mi sapri saro, buon poi mutuo! Buon motore che tende malondo, gente tende chilombi, mi mia mono mamante, buon poi motore. Buon poi motore, buon poi motore. Buon poi motore con conca cacate pate con conuit mi rambo, che motore. Buon poi motore che c'è un buon curvare, ma quanto buchi ne c'è un bruotto. Buon poi è. Dar tortu baba bu gitti tortu var bu şek. Uğur bamur kumaş. Maşa. Bu kumara bu yok. Maşa. Demiş ve ben tut tut tut. Mambu ya. Mambu mı şong sama baba. Ningin la basa sa kuka. Ningin kan bari. Mambu di bu bir şom kankene. Mambui motue, mambui motue, mambui motue ki tel malondo, jende tend kilombe, yimi yamul mamande, mambui motue, mambe, mambui we, mambui motue kumbere makungu kadivu kape ambomba kase kaburu kontu nolo, mambui we. Mwamboi mo muri shongra mikanda mikanda ngoyogra babende mwamboi ke motwe mwamboi ke motwe